Comunque, le donne con la maschera di tipo FFP2, quella con la valvola davanti alla bocca, sono la nuova frontiera dell'erotismo. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Vabbè che c'è la storia di tutte le tue nuove fidanzate, ma devo sapere qualcosa? No, assolutamente nulla. Buongiorno cara Deborah, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Sempre qua, in smart working, naturalmente, rigorosamente davanti ai personal computer, alle piattaforme che ci raccontano come vanno i mercati. E però leggiamo anche le agenzie che ci raccontano di queste nuove fasi che stiamo vivendo, che costringono famiglie italiane e coppie a annullare tante cerimonie. Ce ne sono veramente tantissime. In annullamento, annullate e in procinto di essere annullate, Mauro. Guarda, noi abbiamo preso l'esempio dei matrimoni con Marco Lombardo che come sempre dall'alto e da casa tutto governa, però abbiamo preso l'esempio dei matrimoni ma avremmo potuto prendere tanti esempi di impegni, diciamo così, di cerimonie per le quali magari c'erano anche state delle spese già sostenute e che invece sono state annullate a causa appunto della quarantena. Allora, secondo Facile.it, che ha fatto un'indagine con l'istituto MAP Research e in collaborazione con Norstat, ci sono quasi 10 milioni, 9,6 milioni, le famiglie italiane che hanno cancellato o rimandato impegni in programma in questi mesi, impegni per i quali avevano sostenuto delle spese. Allora, ovviamente di che stiamo parlando? Stiamo parlando dei matrimoni, come testimoniava la nostra colonna sonora iniziale, ma anche delle comunioni, le cresime, i compleanni, insomma, 5 milioni circa di famiglie hanno annullato i festeggiamenti, proprio annullato del tutto, e tra l'altro più della metà non è riuscita a ottenere alcun rimborso. E questo, insomma, dispiace, ma sono, come abbiamo avuto occasione di parlare diverse volte qui a Due di Denari, sono delle vicende contrattuali private sulle quali la legge non ha disposto, ma né forse poteva neppure disporre. Vedremo che succederà da lunedì, quando c'è una nuova fase, la cosiddetta fase 2, ma con tutte le limitazioni di cui sappiamo, abbiamo anche sentito nel giornale radio. Qui io vedo dall'altra parte del vetro che c'è sempre Filippo Aureggi, solido e severo con la sua mascherina, e poi più in là invece colgo lo sguardo adorabile, intrigante di Elisabetta Fusconi, quest'oggi, che è la mia badante di prossimità. Mi manda anche dei gran baci, forse non so se vuole iscriversi anche lei al club delle mie fidanzate, vedremo se presenterà la domanda. Cara Deborah. Vabbè, però che se ne faccia una ragione, perché non la sposi e quindi dovrà accodarsi ai 17.000 matrimoni cancellati fra marzo ed aprile, 50.000 almeno quelli che secondo le stime salteranno fra maggio e giugno, quindi sarà un fidanzamento distanziato come quello che sta intrattenendo con tutte le altre in questo periodo. Allora, di che parliamo oggi però? Non credo delle mie fidanzate, no? Assolutamente no, oggi è giovedì, c'è Investire Informati e siamo molto contenti questa mattina di poter anticipare a tutti i nostri ascoltatori e risparmiatori i termini di una grande operazione che sta arrivando, il nuovo BTP Italia. Si potrà sottoscrivere questo nuovo strumento finanziario dedicato ai risparmiatori retail a partire dal 18 maggio e questa mattina ancora una volta ci viene ad anticipare tutto il capo della direzione del debito pubblico italiano, il dottor Davide Iacovoni, che ascolteremo appunto e saluteremo fra qualche istante, per cui abbiamo un'anteprima questa mattina davvero significativa e quindi pronti a partire anche oggi, caro Mauro, e poi avremo Investire Informati tradizionale appunto con Manuel Pozzi, direttore investimenti di MG Investment, con il quale commenteremo magari anche questa iniziativa ma soprattutto questo scenario che si sta paventando sui mercati finanziari, borse che vanno molto bene, sottostante economico che invece scricchiola sensibilmente, quindi sarà interessante fare anche un'analisi su questi aspetti. Allora, scaletta densa, andiamo rapidamente, ricordo i numeri 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per inviare messaggi SMS o via WhatsApp, che allora i messaggi potranno essere anche di tipo vocale. Vi aspettiamo come sempre, andiamo al nostro giornale Radio del Risparmio, perché poi vogliamo darvi tutte le anteprime e i ragionamenti possibili su questa emissione nuova del BTP Italia. Mi pare sia la 16ª emissione, Deborah, conto bene. Oh, vedi, conti che, bene. Vedi che mi ero preparato adeguatamente. Filippo, per favore, una sigletta per il giornale Radio del Risparmio. Drin drin, edicola Risparmio. Solleviamo un attimo lo sguardo dal Covid-19, perché vi voglio segnalare una decisione della Corte di Giustizia UE che abbiamo appreso da pochissimo, sai, cara Deborah, perché dei pensionati del settore pubblico italiano si erano spostati in Portogallo, chiedevano l'applicazione del regime di maggior favore nel ricevere la pensione senza gravami da imposte, ma è una prerogativa che spetta ai pensionati italiani del settore privato e non è prevista invece per quelli del settore pubblico. Di giudizio in giudizio la questione è arrivata alla Corte di Giustizia Europea, la questione di questi due pensionati, signori HB e IC, così vengono riportati con le sole iniziali dal comunicato della Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia ha detto è legittimo, si può fare, se gli stati si sono messi d'accordo così, Italia e Portogallo, e vorrà dire che i dipendenti del settore privato quando vanno in pensione avranno un vantaggio ad andarsene in Portogallo e quelli del settore pubblico invece no, e così ha statuito la Corte di Giustizia dell'UE. Deborah. Bene, allora quest'altra notizia mi devi aiutare tu a spiegarla ai nostri ascoltatori, io la capisco relativamente, perché non nel senso che è tema tratto da norme e tributi del Sole 24 Ore, perché io voglio sempre mantenere questo privilegio che ho di ascoltare dalla tua diretta voce appunto la spiegazione delle notizie che compaiono su queste pagine. La notizia riguarda i contratti a termine, esatto, e tutte le novità che sono arrivate con il decreto Cura Italia. Stai andando bene. Quando ci sono degli ammortizzatori sociali riconosciuti a lavoratori che naturalmente hanno dovuto rimodulare il loro rapporto con l'azienda oppure sopportare uno stato di crisi, allora in quei casi generalmente i contratti a termine non vengono rinnovati, mi sbaglio, ma in questo caso il Cura Italia ha apportato un correttivo a questa regola. Ma guarda, se hai letto religiosamente il nostro amico avvocato Giampiero Falasca, pagina 30 di Norme e Tributi, oggi su Sole 24 Ore, perché cos'è successo? Articolo 19 bis, quindi inserito in sede di conversione del decreto legge 18, quindi in vigore da oggi, consente di rinnovare o prorogare i contratti a termine, anche a scopo di somministrazione. Se non fosse intervenuta questa modifica, ci sarebbe stato sostanzialmente una impossibilità di prorogare o rinnovare questi contratti sulla base delle norme vigenti. Allora, per evitare che questo significasse anche una perdita del rapporto di lavoro, ancorché a termine, è intervenuto appunto il Parlamento, che ha corretto, ha integrato quanto era disposto sul cura nel decreto legge Cura Italia. Tutti i particolari naturalmente su Norme e Tributi, vi ho detto anche la pagina, pagina 30, mi compiaccio, Deborah, eri molto molto molto preparata. A questo punto, fatto una super sintesi. A questo punto andrei proprio sulla notizia con il nostro ospite di eccezione, mi viene da dire. Prego. Investire informati. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage è impunita. Puoi dir di sì, puoi dir di no. Il dottor Davide Iacovoni ci perdonerà le licenze, sempre un po' di leggerezza che ci prendiamo quando introduciamo questi argomenti. D'altronde la discografia italiana ci sostiene e ci aiuta. Dottore Iacovoni, grazie di nuovo di essere tornato a Due di Denari e benvenuto. È il nuovo capo della direzione, non è il nuovo capo, è il capo della direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia. Abbiamo sempre queste vecchie scalette, dottore Iacovoni, ma lei ormai è solido in quel ruolo da tempo. Ben trovato e grazie. Pronto? Grazie, buongiorno. Eccoci qua. Sì, mi sentite? Sì, la sentiamo. Sì, la sentiamo. Sentite? Eccoci qua. Sì, grazie. Sentiamo, buongiorno, bene. E grazie a voi per l'invito. Allora, dottor Iacovoni, grazie per l'invito. Cosa, Deborah, da dove vogliamo partire? BTP Italia, allora, torna, sì, ma è esatto, un po' diverso dal solito. È un po' diverso dal solito, soprattutto nella finalità. Io credo che sia proprio questa la specificità che questa mattina il dottor Iacovoni vuole spiegarci, perché questa nuova operazione, lo dicevamo prima, la 16ª che parte il 18 maggio, a prescindere dalle caratteristiche un po' diverse del titolo rispetto alle missioni precedenti, e adesso le spiegheremo, il punto veramente nuovo è la finalità di questa operazione. Dottor Iacovoni, prego. Sì, mi sembra molto importante quello che state, che avete iniziato a rappresentare, perché diciamo BTP Italia è uno strumento che tutti conoscete e in questa radio avete sempre dato un'ampia divulgazione dello strumento, quindi noi riproponiamo sicuramente questo strumento, ma appunto la finalità oggi è molto precisa. Come sapete, il governo ha presentato al Parlamento la richiesta di autorizzazione per un incremento di deficit già in due ondate, quindi abbiamo avuto il decreto di marzo e quest'ultimo decreto che sarà emanato nei prossimi giorni, mi è stata già richiesta questa ampliamento di scostamento, che vuol dire sostanzialmente un incremento del deficit. Questo implica un incremento di debito e quindi di risorse che devono essere messe in campo dallo Stato attraverso l'attività di indebitamento. Questo strumento, il BTP Italia, viene quindi utilizzato specificatamente per la copertura di questi spostamenti. Chiaramente non ricoprirà per intero, però rappresenta uno strumento che contribuisce alla copertura di questi spostamenti e lo ricordo. Nel decreto di marzo una parte importante delle spese era rivolta al settore sanitario, ovviamente, e una parte altrettanto importante era rivolta agli ammortizzatori sociali. Nel nuovo decreto ci saranno questi interventi e anche gli altri interventi. Quindi oggi chi va ad acquistare il BTP Italia di questa emissione sa che con questa emissione va a contribuire alla copertura di queste spese specificatamente descritte. Ecco, perché infatti questa destinazione è particolare in questa emissione, tant'è vero che avete anche previsto un raddoppio del cosiddetto premio fedeltà. Che cosa significa in concreto, dottor Iacovoni? Concretamente significa che la persona che acquista, risparmiatore individuale, risparmiatore retail, che acquista il titolo, e lo ricordo, l'avete già fatto voi, ma ripetita Juvent, cioè che l'emissione avverrà dal 18 al 21 e i primi tre giorni, 18, 19 e il 20, saranno completamente dedicati agli risparmiatori individuali, quindi al retail. Costoro che andranno ad acquistare il titolo in questi giorni e lo deterranno fino alla scadenza, che è una scadenza a 5 anni, quindi fino al maggio del 2025, riceveranno un premio proprio per aver detenuto il titolo fino a scadenza. Infatti noi lo chiamiamo premio di fedeltà, che aumenta considerevolmente rispetto alle precedenti emissioni, passa all'8 per 1000, quindi ogni 1000 euro investiti si hanno questi 8 euro diciamo di premio, mentre prima erano esclusivamente 4. Chiaramente l'obiettivo è quello di garantire una maggiore penetrazione di questo strumento nei portafogli dei risparmiatori individuali proprio in un momento così, così particolare, diciamo. Quindi questo è un po' la novità centrale. Devo dirvi e ribadirvelo, mentre nelle precedenti emissioni noi davamo la possibilità di chiudere anticipatamente la parte dedicata al retail, cioè le giornate dedicate al retail, ove diciamo ci fossero state le condizioni per poterlo fare a causa di una domanda anche troppo abbondante, in questo caso invece abbiamo deciso di non avvalerci ex ante di questa possibilità, ma di dedicare tutti e tre per intero i giorni al retail, quindi senza nessuna chiusura anticipata, perché ci rendiamo perfettamente conto che il contesto attuale, anche il contesto sociale in cui stiamo vivendo, dobbiamo ampliare al massimo le possibilità per poter acquistare il titolo o con gli strumenti digitali o con il tradizionale accesso fisico alle strutture bancarie e agli uffici postali, che sapete bene in questi giorni sono chiaramente diverse da quelle a cui eravamo abituati. Certo. Dottore Iacovoni, che aspettative avete rispetto a questa operazione? Mi spiego meglio. In queste settimane sono andati a scadenza titoli che derivavano appunto da emissioni passate, quindi sicuramente fra i risparmiatori si sono liberate delle risorse che potrebbero essere utilmente dirottate appunto in questa nuova operazione, ma è anche vero che in questo momento per molte famiglie italiane si sono aperte e presentate delle enormi difficoltà legate magari alla perdita di posto di lavoro. Forse il risparmio viene viene utilizzato diversamente, per cui mi chiedo se avete fatto anche una riflessione e un ragionamento su questo. E poi seconda domanda, mi chiedevo appunto se siete preoccupati del fatto che Fitch abbia rilasciato questo giudizio sul debito sovrano due sere fa un po' a sorpresa, se temete che questo aspetto possa un po' condizionare anche le scelte dei risparmiatori italiani. Dunque, sul primo punto noi abbiamo delle buone aspettative, anche la scadenza che è stata scelta, lo ricordo che è una scadenza di 5 anni, è quella che in questo momento sembra riscontrare un buon interesse da parte del mondo dei risparmiatori retail. Quello che diceva lei è giustissimo, è un momento di difficoltà per tante famiglie e chiaramente questo strumento noi lo proponiamo a tutti, ma è chiaro che sarà importante che chi ha delle maggiori disponibilità in questo momento, delle condizioni economiche e patrimoniali più solide, ecco, chiaramente ci si aspetta da costoro un certo tipo di come dire, di interesse e di disponibilità a venire incontro a questo strumento rispetto chiaramente ad altre situazioni dove invece prevalgono delle difficoltà di tipo finanziario. Questo chiaramente è molto importante, ma sappiamo bene che in Italia a livello privato la disponibilità di ricchezza di tipo finanziario è molto ampia, nonostante tutte le difficoltà, e quindi l'appello è anche a questi grandi gestioni patrimoniali di arrivare su uno strumento che peraltro comunque garantirà una, come dicevamo prima, una remunerazione sicuramente interessante. Ecco, questo è il punto. L'altra domanda che mi faceva circa le decisioni delle agenzie di rating, naturalmente la decisione recente è arrivata in attesa perché era una decisione fuori calendario. Devo dire però che proprio la mattina successiva alla decisione dell'agenzia di rating, che è arrivata la sera di martedì, nella mattina di mercoledì, come sapete, ieri abbiamo effettuato dei collocamenti tramite asta, dei collocamenti tradizionali, sì, titoli di Stato. I collocamenti sono andati molto bene, con delle coperture le asta molto elevate. Naturalmente abbiamo avuto i tassi un po' in rialzo, ma questo chiaramente riflette l'andamento dei titoli sul mercato secondario, quindi non era assolutamente una novità, diciamo, l'esito di questi incrementi. Ma la domanda è stata molto solida, molto buona, e lo dimostra anche il fatto che poi questi titoli prima dell'asta e dopo l'asta hanno performato molto bene. Tra l'altro, infatti il mercato ha retto, sì. Tra l'altro, no, Deborah, mi viene in mente comunque l'indicazione della BCE che ha detto: ma noi comunque acquisteremo titoli anche se secondo le agenzie di rating fossero fortemente speculativi, dovrebbe aver calmierato il tutto. Ma chiedo una conferma a Iacovoni, quindi darci anche un margine di manovra migliore complessivamente al netto delle questioni adesso di questa nuova emissione che ci sarà dal 18 maggio. Diciamo, al di là delle decisioni di BCE circa la questione del rating dei titoli, in generale direi che il pacchetto messo in campo dalla BCE, soprattutto a partire dalla metà di marzo, è un pacchetto molto importante che direi, oltre alla forza e alla portata di cui dispone, rappresenta anche, come potete capire, un fattore di stabilizzazione molto importante nei mercati, e quindi è quello che poi in qualche modo attira anche l'interesse dell'investitore privato, perché è chiaro che la BCE offre una rete protettiva importante, ma allo stesso tempo è quello che consente il funzionamento dei mercati e quindi anche l'accesso da parte di tutta quanta la platea di investitori nazionali e internazionali, che magari in un contesto diverso avrebbe un atteggiamento più prudente. Certo. Un'ultima domanda, dottor Iacovoni, perché Mauro, stavo leggendo con curiosità un sms di un ascoltatore che dice: perché non fare emissioni di BTP solo per italiani anche successivamente all'emergenza? Chiaramente vedremo come andrà questa operazione. E poi, dottor Iacovoni, mi è sembrato un utile assist anche per anticipare, per quello che potrà fare naturalmente, il fatto che questo era stato già indicato nella revisione delle linee guida del debito pubblico appunto pubblicata qualche settimana fa. In realtà il tesoro italiano ha in mente di fare altre operazioni da qui all'estate. Cosa può già dirci a questo proposito, promettendo già agli ascoltatori che con il Tesoro faremo un percorso educativo anche su questi argomenti, che sono molto interessanti e che devono sicuramente essere anche ben spiegati ai nostri ascoltatori da qui magari proprio alla prossima estate? Dottor Iacovoni. Sì, intanto vi ringrazio per questo programma, mi sembra una cosa molto interessante, quindi anche a nome dell'amministrazione questo sicuramente il dovuto, diciamo, ringraziamento alla vostra emittente. Sì, noi siamo, l'abbiamo detto nelle linee guida, come lei giustamente sottolineava, che stiamo anche, diciamo, valutando altri strumenti che saranno sicuramente molto diversi da quello attuale, però anche per una questione ovviamente, diciamo, di comunicazione su questa missione. In questo momento ci stiamo focalizzando molto su questo prodotto. È importante che l'emissione abbia un esito soddisfacente, quindi focus molto su questo, ma confermo pienamente che per il mondo retail si stanno pensando anche ad altre soluzioni innovative. Per quanto riguarda il discorso italiano o meno, io comunque ricordo che la parte dell'emissione di BTP Italia, l'emissione di BTP Italia dedicata agli investitori retail, comunque nelle passate emissioni è stata sempre in larghissima parte sottoscritta da investitori retail domestici residenti in Italia, diciamo, quindi quella è una caratteristica che sicuramente poi continuerà a rimanere eventualmente anche in questi altri nuovi strumenti. Ma certo. Infatti penso, Deborah, torneremo a parlarne, perché poi nelle emissioni precedenti ci sono stati anche gradi diversi, importi diversi prenotati dai sottoscrittori, ma comunque, appunto, come si sta confermando il dottor Iacovoni, sempre una notevole presenza di investitori italiani. Dottor Iacovoni, io non voglio trattenerla ulteriormente, però le dico già che qua ci stanno ovviamente chiedendo gli aspetti fiscali, perché allora io intanto so che si paga un'imposta ridotta, perché si paga il 12,5% e non il 26% di aliquota. È corretto? E poi c'è anche il tasso, Mauro, mi intrufolo. Corretto. Anche per questo, perché un ascoltatore chiede: non conosco bene il tasso, il rendimento minimo garantito, ricordiamolo, dottor Iacovoni, viene comunicato 3 giorni prima la partenza del collocamento, no? Ah, questo, sì, questo è molto importante, quindi il 15, venerdì 15 ci sarà la comunicazione del rendimento minimo in termini reali, naturalmente, perché questo rimane sempre comunque uno strumento indicizzato all'inflazione, quindi l'investitore deve sapere che chiaramente siamo in epoca di bassa inflazione sicuramente non è un tema in questo momento, ma questo ha un orizzonte di 5 anni, anzi per certi aspetti dobbiamo tutti augurarci che in qualche modo ci sia un livello di inflazione più elevato, perché vorrà dire che ci sarà stata anche una ripresa economica, e quindi in un orizzonte quinquennale avere una protezione dell'inflazione diventa molto importante. Quindi comunque, appunto, venerdì comunicheremo la cedola reale minima, e poi all'apertura della fase istituzionale, quindi il giovedì 21, avremo alla mattina la fissazione della cedola poi definitiva. E quindi in questo momento chiaramente non possiamo, anticipare, perché dovremo vedere quali saranno le condizioni di mercato al momento della comunicazione della cedola, ma come sempre la cedola tenderà a rispettare molto fedelmente quelli che saranno i livelli. Sul tema della fiscalità, appunto, è stato già detto, i titoli di Stato già oggi godono di una fiscalità di vantaggio importante rispetto agli altri strumenti finanziari, con un aliquota al 12,5%, e poi comunque permettetemi di farvi notare che questa premialità che viene garantita alla fine comunque è una premialità molto, molto importante. E poi ognuno si farà chiaramente i propri calcoli, diciamo, però questo è un aspetto che bisognerà tenere molto in considerazione proprio alla luce della differenza rispetto alla precedente emissione. E allora, Deborah, con una precisione svizzera, mi viene da dire, guardando anche Baba Fusconi, sono le 11:30 e pochissimi secondi. Bene. Io ringrazio, penso che tu faccia lo stesso, il dottor Davide Iacovoni, capo della direzione del debito pubblico. Prendiamo un paio di appuntamenti con lui. Certamente, quindi non lasci il paese, dottor Iacovoni, perché avremo ancora bisogno di chiarimenti da lei. La ringraziamo, le auguriamo buon lavoro. Grazie ancora sia per oggi che per il futuro. Grazie mille. A presto. E cara Deborah, è il tuo momento adesso, perché ci devi raccontare cosa fanno le come borse. Vanno i mercati. Sì? Rosciani, Meazza, portano la borsa alla piazza. Due di denari. Investire informati. Investiamo informati con Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment. Ci scusiamo, l'abbiamo fatto attendere qualche minuto, ma forse anche lei era interessato a sentire le anticipazioni di Davide Iacovoni della direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia. Benvenuto. Assolutamente sì, innanzitutto buongiorno a voi e agli ascoltatori, e è importantissimo capire come si muove il nostro governo in questa fase in cui avrà bisogno di collocare davvero tanti titoli. Ecco, questo... infatti è interessante, Mauro, capire anche, visto che questa emissione, la nuova, la sedicesima del BTP Italia, appunto, questo è lo spirito che ha accompagnato sempre queste operazioni da quando appunto sono nate qualche anno fa, è interessante capire se questo titolo è interessante anche per un investitore istituzionale, quindi o professionale, come può essere un fondo di M&G Investment. Quindi Pozzi, le chiederei a bruciapelo anche un commento relativamente a questo aspetto. Per voi è una classe di investimento interessante? Allora, in generale, i titoli di Stato offrono comunque dei rendimenti che sono abbastanza modesti, in generale, e quindi l'appeal è relativo, ecco. Uno si chiede se possono essere dei titoli comunque difensivi oppure se pagano un buon rendimento. Sul difensivo, nel caso del BTP, in questa fase ci sono un po' di dubbi, perché comunque il nostro paese parte da un livello di debito molto alto. Lo sappiamo tutti, circa il 135% rispetto alla grandezza del PIL generato in Italia ogni anno. Quest'anno l'esigenza di emettere debito sarà molto, molto, molto grossa, nel senso che ci sono 316 miliardi di euro di titoli in scadenza, e poi ci sono una necessità di ulteriori 180 miliardi circa di emissioni ulteriori dovute a provvedimenti presi a marzo e ad aprile, provvedimenti necessari, importantissimi e fondamentali. Però, voglio dire, sono tante centinaia di miliardi che devono andare sul mercato, e come sempre, come per qualunque titolo, quando c'è tanta offerta, magari non c'è tantissima domanda, è ovvio che i prezzi un po' scendono, lo spread tende ad aumentare, come succede anche con i corporate bond. Ecco, quindi c'è tanto interesse o no dal nostro punto di vista? Ma come investitori internazionali, diciamo che guardano un po' tutto lo spettro delle opportunità, guardiamo anche quali sono di fatto le alternative. Ecco, i titoli di Stato tedeschi, per esempio, lì uno fa solo una scommessa, una chiamata di percepita sicurezza, se vogliamo. Ecco, se uno vuole stare tranquillo, anche se sa che un po' di denaro lo perde, perché comunque hanno rendimenti negativi. Sui titoli di Stato italiani per noi è un po' come comprare dei corporate bond, molto più liquidi senz'altro, di un emittente che comunque ha le spalle larghe, perché sappiamo quanta ricchezza c'è in Italia, però è come se fosse, tra virgolette, passatemi il brutto paragone, come un'azienda che non cresce. L'Italia è come fosse un'azienda che non cresce, quindi il tema è, sta diventando sempre più indebitata, perché ora di fine anno o inizio dell'anno prossimo avremo un rapporto debito PIL vicino al 150-155%, quindi non più il 135%. O torna a crescere, o se no chi presta denaro si chiede come fa nel lungo termine a sostenere questo debito. E beh, le risposte sono due: o paga Pantalone, che siamo noi italiani, oppure deve tornare a crescere. Quindi l'auspicio grosso è che assieme a queste riforme e soprattutto norme per cercare di dare ossigeno all'economia e alla società in questa fase così difficile, arrivino poi anche altre che aiutino il nostro paese a liberare le sue fantastiche potenzialità e risorse. In primis minore burocrazia, direi che è la primissima delle cose, è un po' più di certezza del diritto. Quindi non siamo grandi non siamo compratori particolari di BTP in questa fase, perché vediamo altre opportunità a parità di spread, diciamo. Possiamo investire magari in tantissimi tipi di corporate bond che hanno tutt'altri rischi, sono meno liquidi, però se parliamo di rating BBB più o meno come quello dell'Italia adesso, lo spread è similare, per cui in un'ottica di investitore istituzionale che ha gli analisti tanti per capire come vengono gestite le singole aziende, i bilanci, che può fare il suo lavoro di selezione, preferiamo fare questo lavoro piuttosto che non puntare troppo sul singolo emittente titolo di Stato, dove ci sono un po' ancora queste incognite su cosa farà l'Italia per tornare a crescere poi quando si potrà parlare di crescita. Ecco. Dottor Iacovoni, c'è però una condizione complessiva di mercato. Scusi. Cioè, gli hai fatto l'upgrade, come si direbbe nel gergo dei rating. La volevo subito spostare di incarico, no, mi perdoni. No, è che stavo ancora riflettendo su queste indicazioni appunto complessive che lei ci stava dando. C'è un generale aumento del debito degli stati sovrani in tutta Europa e in tutto il mondo, quindi mi immagino che in qualche modo ci sarà anche una ripartenza, perché non possiamo certo immaginare che questo stato di cose indotto dall'emergenza del coronavirus poi si protragga particolarmente a lungo, anzi sappiamo che molti stati già fremono anche per maggiori riaperture rispetto a quelle che sono disponibili finora. No, questo è sicuro, è sicuro sia il fatto che poi si tornerà a crescere e per, diciamo, da quando potremo lasciare un po' le spalle tutta questa grande paura per la pandemia e si potrà tornare a uno stile di vita un po' più normale, ci sarà sicuramente un boost almeno temporaneo alla crescita, visto tutti questi sforzi enormi fatti dalle banche centrali e dai governi, su questo non c'è dubbio, però il tema è un po' più di medio termine, ecco, di medio lungo termine, ecco, quanta crescita ci può essere. Faccio un esempio, visto che abbiamo citato un po' il debito che è alto anche in tanti altri paesi. La Francia ha un rapporto debito-PIL attorno al 98%, la Spagna 95-96%, questo diciamo prima, questo fino all'anno scorso, ecco. Il Portogallo 117%, per cui comunque parecchio alto, però la Spagna e il Portogallo, che sono considerate un po' gli altri paesi diciamo del sud Europa come noi, negli anni in cui l'economia andava un pochino meglio, qualche anno fa, crescevano del 2-3%, e noi invece facciamo una fatica incredibile a crescere dell'1% in questi anni, dico, passati. Quindi il tema è la crescita economica, quella è la vera medicina di lungo termine poi per la sostenibilità dei debiti alti. Oppure l'alternativa è quella di avere un allineamento totale tra governi, banca centrale e magari anche altre istituzioni. Pensate al Giappone, che ha un rapporto debito PIL enorme, molto superiore al 200%, e però va avanti da anni e anni questa situazione senza che i mercati si preoccupino troppo, anche perché lì c'è comunque la banca centrale che fa quantitative easing e compra solo i titoli del Giappone. Le Poste e altri enti, diciamo, chiamiamoli parastatali, che sono dei grossi acquirenti di titoli di Stato giapponesi, per cui un po' si, tra virgolette, anche se non è corretto tecnicamente il termine, si monetizzano il debito. Ecco, e infatti un po' nell'ottica, io vi dico un po' l'ottica degli anglosassoni, visto che lavoro per un'azienda diciamo che è britannica, di origine anche se internazionale, loro fanno proprio fatica da sempre a concepire un po' come si possa stare assieme, fortunatamente tanti paesi, se però dopo non hanno una vera, un vero capofamiglia unico, diciamo così, un governo unico veramente europeo, una banca centrale quindi che può lavorare esattamente un po' come fanno gli Stati Uniti. Ci sono 52 stati, ognuno ha le sue economie, le sue tradizioni diverse, però per certi temi fiscali ed economici lavorano all'unisono. E questo è un po' che ancora siamo a metà, un piede qua, un piede là in Europa, e quindi bisognerà vedere in questa fase, perché è piuttosto delicata, se l'Europa farà il passo e crescerà. Dottor Pozzi, c'è un tema molto interessante che era un pochino sotto traccia nella sua risposta precedente, il tema del debito delle società. Noi ovviamente per fronteggiare questa crisi drammatica che stiamo vivendo stiamo ragionando appunto sul tema del debito pubblico, perché gli stati, lo diceva poco fa, devono farlo lievitare necessariamente questo debito per sostenere la crisi sanitaria che sta degenerando anche in crisi economica, ma in realtà si stanno indebitando un po' tutti, perché lo stanno facendo gli imprenditori per mandare avanti le aziende e quindi colmare queste lacune di liquidità che stanno determinandosi in questo momento, appunto stanno correndo un po' tutti in banca per indebitarsi e sistemarsi, arginare momentaneamente queste situazioni. Sta crescendo anche il debito delle società, perché anche quelle che sono quotate stanno riprendendo appunto ad emettere obbligazioni corporate, come si definiscono in termini finanziari, e mi chiedo dunque comunque se anche questo può essere in prospettiva un tema di investimento interessante, ma anche questo un pochino pericoloso, perché in ogni caso è l'ennesima voce di debito che cresce e in prospettiva non è che vedremo poi generarsi una bolla complessiva che sarà l'altro grande fronte di preoccupazione futuro? Penso che la crescita del debito sarà più alto debito pubblico in termini di crescita in questa fase, proprio perché ci sono gli stati che sono chiamati a surrogare quello che di solito facevano in termini anche di spesa le aziende o i privati. Devono elargire denaro per le famiglie, per i lavoratori che sono in cassa integrazione, per esempio, devono aiutare le aziende tendenzialmente con garanzie su prestiti, come facciamo anche noi in Italia in questa fase, o con prestiti diretti alle aziende tramite, diciamo, entità legate un po' ai vari governi, o a volte addirittura con finanziamenti a fondo perso diretti in alcuni settori particolarmente colpiti. Quindi è il debito degli stati che aumenterà diciamo, più che proporzionatamente rispetto all'aumento del debito delle aziende. Il debito delle aziende è aumentato parecchio negli anni scorsi, anche perché sono trovate le aziende a avere certi margini di guadagno più o meno stabili o in aumento, e invece un costo del debito che calava con i tassi che scendevano. Quindi le aziende avevano già messo tanto debito. In questa fase è ovvio che ha bisogno di far ricorso alle linee di credito, che magari avevano già in essere, emettere denaro, però hanno anche un altro strumento, che è quello di dire: cari azionisti, per i prossimi 6-12 mesi non vi pago il dividendo, perché mi devo tenere questa liquidità stretta in base alle esigenze, non sappiamo se fra 2 mesi torniamo a lavorare per bene oppure no, ed è quello che stanno facendo, è stato chiesto in maniera esplicita dalle banche, lo stanno facendo anche a tante altre aziende. Guardate oggi tra le notizie quella della Shell, Royal Dutch Shell, che per la prima volta dopo guerra ha ridotto il dividendo, quindi insomma vuol dire che a fronte di inflazione così incredibile o quantomeno straordinaria, anche le aziende adottano politiche straordinarie. Però sull'aumento esagerato del debito delle aziende non è, penso, la maggiore preoccupazione. Anzi, quando ci sono queste fasi, soprattutto le fasi di mercato che abbiamo visto a marzo, dove i prezzi sono scesi tanto sia per la borsa, per l'azionario, che per anche i titoli corporate, quindi emessi dalle aziende, c'è sempre da chiedersi due cose: quali sono i rischi effettivamente, per esempio i rischi di fallimento per le aziende, e quanto i prezzi già stiano scontando questi rischi, quindi se ci sono o no delle opportunità. A marzo i prezzi sono scesi così tanto e i rendimenti, quindi diciamo per chi comprava su quelle debolezze, sono aumentati così tanto che in alcuni casi gli spread già stavano prezzando degli scenari da Armageddon, apocalittici, che probabilmente non si realizzeranno grazie a tutti questi soldi pubblici che stanno arrivando. Aspetti, si fermi un attimo, dottor Pozzi, perché è il momento delle informazioni sulla viabilità. Torniamo tra poco con questo ragionamento di indebitamento e anche volevo chiedere sulla liquidabilità poi di alcuni tipi di investimenti. Adesso il traffico. Due di denari. E non a lunedì nero, non conosce default. Senza banche centrali, senza WTO. Non a lunedì nero, non conosce default. Allora, stiamo dialogando nel nostro Investire Informati, abituale appuntamento del giovedì, con Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment. Veniamo da un articolato discorso svolto appunto da Pozzi sul debito privato, per così dire, cioè le richieste di finanziamenti da parte delle imprese. Su questi c'erano state in altre puntate di del nostro Investire Informati, dottor Pozzi, anche delle perplessità sulla liquidabilità, cioè qualche ascoltatore diceva sì, però poi promettente l'investimento, ma magari quando ho bisogno, e in questa fase purtroppo la liquidità a brevissimo termine è diventata un'urgenza ancora più stringente, ecco, quando ho bisogno poi faccio fatica. Questo è un problema che si pone, si sta ponendo, l'ho sentito, lo avvertite dal vostro punto di osservazione? È verissimo. Infatti, di solito le obbligazioni che vengono emesse dalle aziende pagano un rendimento o dei tassi più alti rispetto ai titoli di Stato dei rispettivi paesi, per due motivi. Uno è ovviamente il fatto che di solito un'azienda è più rischiosa come debitore rispetto a uno Stato sovrano e quindi deve incorporare il rischio che fallisca, ma dall'altro anche perché queste obbligazioni nei momenti soprattutto di crisi, di paura, tendono ad essere molto meno liquide. Quindi queste obbligazioni devono pagare un tasso di interesse più alto perché deve essere una specie di premio per questa liquidità che a volte evapora. A marzo, in particolare, cosa è successo? Che tanti investitori privati o istituzionali hanno iniziato a capire che si stava arrivando, una crisi importante e quindi hanno iniziato a vendere. Ecco, dopodiché in realtà moltissimi fondi di investimento ed ETF, tanto, hanno ricevuto delle richieste di riscatto. Quindi i gestori di questi ETF o di questi fondi sono dovuti andare poi sul mercato e vendere i titoli che avevano in portafoglio perché devono ridare dietro i soldi agli investitori che lo chiedevano. Il fatto che in tanti facessero questo ha creato una specie di effetto imbuto, collo di bottiglia, ecco. Quindi c'erano tanti titoli in vendita corporate e c'erano pochi acquirenti. È il motivo per cui i prezzi sono scesi tanto a marzo, lo spread è aumentato, i rendimenti sono aumentati, i prezzi però sono scesi, ecco, tanto. Questo deve tenere presente sempre. Se scegliere come investire i propri risparmi, bisogna sempre tenere presente rischi e opportunità, compreso il rischio che nei momenti più difficili la liquidità possa essere poca. Ecco. Tipicamente i titoli di Stato, parliamo praticamente dei BTP, di cui abbiamo discusso prima, hanno invece un vantaggio di essere molto più liquidi. Certo, però magari rendono molto meno o hanno rischi che bisogna comunque capire. Ecco. Ognuno ha un po' i suoi pregi e difetti. Certamente, però lei ha detto una cosa sacrosanta, sono dei rischi che bisogna capire, conoscerli, perché ovviamente poi quando si manifestano certi effetti di mercato magari si è anche un po' più corazzati a sopportarli. Dottor Pozzi, allora è uno scenario assolutamente inedito quello che stiamo vivendo, avremmo fatto volentieri a meno di viverlo, ma tant'è, ci tocca questo in questo momento, però insomma per i professionisti dell'investimento chiaramente c'è la possibilità di individuare delle occasioni di investimento che magari a noi non sono visibili con grande chiarezza come piccoli risparmiatori. Allora, come state riorganizzando voi le idee di investimento? Sappiamo che ovviamente è un momento d'oro per il farma, per il settore della ricerca scientifica, un momento d'oro per il settore delle infrastrutture tecnologiche, delle telecomunicazioni, perché è solo grazie a queste che in questo momento molti di noi si possono permettere di lavorare in smart working e continuare a fare incontri, anche se virtuali, in lontananza appunto con colleghi, con i capi e con persone che stanno magari anche da tutt'altra parte del mondo. Lei è a Londra in questo momento, io sono a casa mia, Mauro Meazza è in radio a Radio 24 per l'appunto. Da altri settori invece un pochino si scappa, c'è la grande fuga dal petrolio. Ecco, partendo proprio da un ragionamento di questo tipo, settori vincenti in questo momento, settori da prendere invece con le pinze, così da dare anche qualche idea di analisi ai nostri amici ascoltatori, risparmiatori, piccoli investitori. Ok, è il momento dove lavorare sia in attacco che in difesa, in questo senso. Bisogna lavorare proprio su due pilastri. Da un lato bisogna mantenere una certa dose di liquidità o di titoli che sono facilmente liquidabili, neanche alcuni titoli di Stato, per esempio, o altri strumenti che comunque sono più liquidi rispetto, per esempio, ai corporate bond. E questo è importante perché non sappiamo la pandemia come si evolverà, siamo qua nella speranza che man mano receda, però non c'è ancora questa certezza, ecco. Sicuramente si arriverà ad avere anche un vaccino, ad avere dei trattamenti più efficaci, non c'è dubbio su questo, ma non sappiamo se è una questione di qualche mese o invece tempi un po' più lunghi, ecco. Per cui ancora un po' di difesa ci vuole e questo vuol dire anche poi negli investimenti un pochino più diciamo più rischiosi e remunerativi. Per esempio anche sanità, come l'ha detto, piuttosto che servizi di pubblica utilità, che stanno reggendo abbastanza bene anche in borsa, una parte di beni di consumo più stabili, quindi legate per esempio all'alimentare. Sul farmaceutico mi permetto di dire una cosa, perché ho fatto proprio delle chiacchierate con anche i nostri colleghi analisti a Londra. Non è detto che grazie al coronavirus molte aziende faranno degli affari d'oro, no, magari lavoreranno con margini molto bassi e sì, però fatturati un po' più grandi. È molto quello che sta succedendo invece è che cambia l'opinione pubblica nei confronti del settore farmaceutico allargato, nel senso che c'è stata tanta un po' scetticismo, quasi un malumore verso certe aziende per tanti motivi, e adesso si capisce invece che sono comunque anche la ricerca è un elemento indispensabile, compresi anche ovviamente i vaccini in certi frangenti. Per cui sicuramente questo è un aspetto favorevole, non vuol dire che poi si creino grandi aspettative di utili per il settore in generale. Cioè lei dice... No, mi scusi, interrompo, volevo capire esattamente questo punto. Dice, se prima poteva esserci una sorta di resistenza nei confronti di certi settori, ad esempio caratterizzati dalla ricerca, la ricerca farmaceutica, in seno all'opinione pubblica genericamente intesa, adesso questo tipo di percezione, magari anche di resistenza a investire su certi settori, è venuto meno, anzi, forse si è spostato in un atteggiamento di favore. Sì, corretto. Esattamente questo. Prego, l'ho interrotta, proseguo pure nella risposta, ma volevo capire esattamente il punto che ci stava esponendo. Prego. No, infatti anche perché noi la viviamo ovviamente da europei in una certa maniera. In America, pensate, dove il settore sanitario è completamente diverso, hanno dei costi enormi, completamente sproporzionati di costo per la sanità rispetto ai redditi, al PIL. Lì la percezione del settore sanitario è molto diversa, è la peggiore rispetto che da noi, ecco, come opinione pubblica. Detto questo, dall'altro poi ci sono settori invece che hanno sofferto tanto, ecco, un po' tutti i settori industriali, ma anche stando nel mondo delle infrastrutture. Allora, ci sono alcune infrastrutture che sono state vincenti in questa fase, come aziende italiane come Inuit, per esempio, che ha la rete per il passaggio dei dati in 3G e 4G, ecco. E la stessa cosa anche in America, aziende che fanno la stessa attività o quelle che hanno magari i grossi centri di elaborazione dati, ecco, sono tutti tipi di infrastrutture tecnologiche che stanno avendo un boost addirittura in questa fase. Poi ci sono le infrastrutture che di solito invece sono dei business molto tranquilli, prevedibili, come la gestione delle autostrade a pagamento, dei porti, degli aeroporti, che invece sono beccati in pieno purtroppo gli aspetti negativi di questo tipo di crisi, perché per qualche mese non hanno sostanzialmente hanno visto ridurre enormemente i fatturati, ecco. Da questo punto di vista molte di queste aziende hanno comunque una situazione, diciamo, di bilancio abbastanza solida, spesso hanno anche enti pubblici o paragovernativi alle spalle e quindi possono superare un po' queste fasi così critiche, ecco. Quindi, per esempio, parlando di infrastrutture, sicuramente potrebbero essere una di quelle aree da guardare con più interesse, proprio perché nelle infrastrutture c'è sia il mondo delle aziende più tranquille, prevedibili e resilienti, sia anche quelle aziende che di solito lo sono, in questa fase non lo sono, però poi quando si tornerà da qui a qualche mese o trimestre a una vita più normale, sicuramente saranno tra le prime che potranno essere prese in considerazione. Sul settore energetico so che è una domanda calda in questo periodo, perché il prezzo del petrolio ha fatto fa le bizze e addirittura ha stupito tutti quanti con i prezzi negativi sui contratti, sì, future di maggio, e magari ci sarà qualcosa di simile anche a giugno, però lì diciamo che è sempre difficile poter dare un'idea di previsione sul prezzo del petrolio, ecco. È sicuro che in questa fase c'è un grande scompenso tra la domanda che è crollata come non mai nel giro di poco tempo e l'offerta che sta soltanto ultimamente iniziando un po' a diminuire, ecco, visto che stanno iniziando a mettersi d'accordo un po' Norvegia da una parte e la Russia, i paesi. La Norvegia ha tagliato stanotte, sì, infatti partirà da giugno, ma ha già deciso e vale la produzione norvegese per il 2% di tutte le forniture mondiali, per cui direi che è un'iniziativa importante. Stiamo chiudendo, Pozzi, le chiedo solamente un commento finale, se Mauro mi concede, su questo punto. Voi siete dei professionisti delle scelte di investimento, non siete dei consulenti che vanno direttamente a parlare con il piccolo risparmiatore, però insomma avete le idee precise anche su questo. Un piccolo suggerimento finale ai nostri piccoli risparmiatori all'ascolto per affrontare questo momento piuttosto complicato in cui forse magari la scelta di risparmio è messa in secondo piano rispetto ad un'altra emergenza economica della famiglia. Le chiedo un piccolo suggerimento a fine puntata. Ok, allora, per le famiglie che hanno ovviamente la possibilità, chiamiamo il lusso o la fortuna di avere dei risparmi, 30 secondi. Non devono attingere subito, tenete presente che in questa situazione mantenere i nervi saldi, verificare con propri consulenti o banche se ce li hanno, quanto i portafogli siano ben diversificati, è la cosa più importante, perché i mercati sono sempre mercati dove i prezzi salgono e scendono nel breve, ma quando poi le scelte sono state fatte in maniera un po' sensata e ben diversificati, abbiamo sempre visto che in tutte le crisi passate, anche le più grosse del 2001, 2003, del 2007, 2009, poi dopo i prezzi si rinormalizzano e tornano poi a salire. In più, grazie. Quindi nervi saldi. Vi fermo perché siamo veramente oltre ogni limite. Manuel Pozzi, direttore investimenti di MG Investment, grazie. Due di denari con Deborah e Mauro torna lunedì perché domani è il 1° maggio. Grazie a tutti.